αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Ed eccoci tornati con il secondo episodio di Dega from Lesbo Island. Buonasera, Dega. Buonasera, secondo episodio. Secondo episodio, siamo mancati giovedì scorso e quindi abbiamo deciso di farlo bisettimanale da oggi in poi, un po' per vicissitudine più che per scelta, ma oggi siamo qui. Problemi vari. Beh, non è. Immagino che la tua routine non sia tranquilla e lineare, e quindi è un po' complicato organizzare questa chiamata settimanalmente. Per la live poi è ancora più complicato, ma ci proviamo. Beh, oggi ci evitiamo il live. Possiamo dire ai nostri ascoltatori che oggi è martedì, ci ascolterete fra due giorni. Però prima o poi proviamo anche a fare la live, vediamo cosa salta fuori. Di sicuro salta la connessione, poi chissà cos'altro salta fuori. No, di cose di parlarne ce ne sono, di cui parlare ce ne sono tante, quindi anche se la facciamo un po' più improvvisata, secondo me non è così troppo male, viene più chiacchierata e come dovrebbe essere, anche perché non sono qui per insegnare né istruire, ma per dare solo un punto di vista, quindi un punto di vista improvvisato è sempre più sincero, no? Beh, certo. Poi vabbè, la volta scorsa io in realtà avevo un sacco di domande da farti, tu invece sei un po' partito anche per un tuo viaggio che ci hai fatto fare, meglio così, e questa volta magari riesco a farti qualche domanda più specifica, a interromperti, però in realtà per continuare sulla falsariga della volta scorsa vorrei che fossi un po' tu a darci un'inquadratura iniziale della puntata di oggi e di come sono state queste due settimane in cui, da quando ci siamo sentiti, in breve. Ma a livello generale possiamo dire che la situazione non è troppo cambiata in grandi termini. Per quanto riguarda magari il mio lavoro in particolare, sì, ma non è di quello di cui voglio parlare, soprattutto per chi ci ascolta. Numero uno, non farei un cazzo a nessuno. Due, la visione generale, un overview da gabbiano che guarda dall'alto, secondo me è più utile per capire cosa funziona, cosa succede e come sta evolvendo qui la cosa. Di fatto, una cosa su cui posso assolutamente parlare come introduzione è che senza dubbio la situazione si fa un attimino un po' più tesa. Abbiamo parlato nella scorsa settimana di tensioni sociali e politiche che si erano sviluppate più magari nei mesi precedenti che in questo periodo, ma la situazione sta un attimino un po' cambiando. Nell'arco di queste due settimane ci sono state due manifestazioni grosse dei locali qua, in cui per una domenica e un mercoledì hanno invaso la piazza grande della città in cui vivo, che è il capoluogo dell'isola di Lesbo, città di Mitilene. E una per un motivo più, diciamo, di ricordo, in quanto un anno fa c'è stata una grande protesta quando il governo greco ha deciso di mandare sull'isola le forze speciali dell'esercito per ampliare l'uso della forza delle forze di polizia, e l'anno scorso c'è stata una grossa protesta nei locali, tanto da far respingere queste nuove restrizioni, queste nuove uso della forza del governo al mittente. Sono arrivate, hanno portato con sé cariche di diciamo così, di manodura e celodurismo del governo greco, ma nel giro di 3 giorni sono state talmente tante proteste, lanci di sassi e robe contro le forze armate, che dopo 3 giorni sono dovuti rientrare ad Atene per calmare un po' gli animi. E questa domenica, non questa, quella scorsa, c'è stata una manifestazione per il ricordo di quei fatti dell'anno scorso. Tutta organizzata naturalmente dai locali e dai partiti un po' più destrorsi, un po' più nazionalisti, diciamo. E la seconda invece è stato questo lo scorso mercoledì, in cui si è protestato molto di nuovo nel nuovo campo, centro, scusate, il nuovo luogo dove dovrebbe sorgere il nuovo campo, che naturalmente i locali osteggiano molto, e hanno invaso tutta l'area e hanno impedito l'accesso a un paio di funzionari del governo di entrare perché hanno barricato la strada e hanno chiuso completamente l'accesso alle macchine dei funzionari del governo. È un po' più tesa proprio per questo, perché nonostante qui ogni tot mesi ci sia una decisione nuova presa, una nuova idea, una nuova opzione per quello che dovrebbe essere la gestione dei migranti, i locali si ribellano. I locali si ribellano, nonostante non ci sia tanto Alba Dorata dietro come in precedenza, i locali si ribellano e quando si ribellano lo fanno abbastanza veementemente. Però si ribellano per lo più quindi contro le autorità governative, cioè c'è l'odio o comunque la protesta è indirizzata verso di loro, o questa cosa in qualche modo è anche invece sentitamente indirizzata verso questa figura mitologica del migrante? E poi questa è la prima domanda che volevo farti, la seconda invece hai parlato di un campo nuovo, che forse mi sono perso io, ma non mi ricordo ne avessimo parlato la volta scorsa, quindi oltre al campo nato a novembre, mi sembra, dopo l'incendio di Moria, sta nascendo un campo nuovo addirittura, perché l'ultima volta che avevamo parlato addirittura mi sembrava si parlasse di una chiusura dei campi, non settimana scorsa, non 2 settimane fa, ma qualche mese fa, a dicembre, mi parlavi, forse qua chiudono tutto. Invece poi alla fine non chiudono tutto e in più stanno aprendo un nuovo campo. Allora, per rispondere alla seconda domanda in primis, il nuovo campo creato, che si chiama Kertepe 2, Moria 2, Mavruni, ha vari nomi, è sempre stato considerato un campo provvisorio. Dopo Moria si è creato questo campo un po' così in emergenza, ma è sempre stato considerato temporaneo, non era da considerare un campo che potesse durare più di un tot mesi, no? E quindi subito sono partite le ricerche per il nuovo spazio, il nuovo luogo in cui potrebbe avere luogo il campo successivo, che invece sarebbe stato più di pianta stabile. La zona scelta è, forse non ho parlato troppo le scorse settimane, ma la zona scelta è una zona più dentro l'isola, nell'entroterra, quindi non più come Moria era a 2 chilometri dal mare o come questo qui nuovo sul mare, Che ma questo è un bene, per nell'entroterra. quanto ci hai detto la volta scorsa, bene così, in un certo senso, perché le condizioni attuali della vita sul mare, praticamente, soprattutto nel periodo invernale, sono una delle parti Magari più sulla gravi. carta, magari sulla carta, ma assolutamente no, perché le condizioni del nuovo campo, del nuovo ipotetico campo, sono estremamente peggiori. Si parla di un'organizzazione umanitaria in cui non possono entrare totalmente. Si parla di un luogo a più di 50 km da Mitilene. Si parla di un luogo completamente abbandonato a se stesso, in cui non ci sono città o luoghi, villaggi a cui magari gli stessi rifugiati vorrebbero spendere i pochi denari che hanno. Si tratta di un campo totalmente isolato, quindi benché la stagione invernale sia finita e che quindi si possa parlare di condizioni meteorologiche migliori, più favorevoli, d'altra parte è completamente più svantaggioso per loro se di fatto le ONG non possono entrare dentro il nuovo campo e gli stessi rifugiati, come si dice fino ad adesso, non potranno neanche uscire. Quindi la condizione potrebbe essere molto peggiore di quelle di adesso. Di fatto, comunque, stiamo parlando di aria fritta, perché ogni volta che viene fuori un luogo si parla di proteste, si parla di locali che cercano di osteggiare in ogni modo, come è successo questo mercoledì. E quindi l'idea iniziale, quando è stato creato il nuovo campo provvisorio di Kara Tepe, era quella di usiamo questo campo come campo provvisorio verso Pasqua, liberiamo tutti questi poveri cristi in qualche modo, accelerando il processo di ricollocamento o di richiesta d'asilo o di respingimento, e poi per il futuro, visto che non ci saranno più gente nel nuovo Kara Tepe, spostiamo tutto in questa zona isolata. Da qui il tipico modus operandi greco di fare le cose, c'è un abisso. Di fatto le persone sono sempre 7.000, da qui a Pasqua manca veramente poco, la gente non è stata rispedita in altri paesi, non è stata portata troppo in grosse quantità nella mainland, ad Atene, quindi è una cosa che è ancora sulla bocca di tutti, se ne parla, ma chi ha vissuto tanto quest'isola sa bene che sono tante parole a vuoto, soprattutto perché non si considera troppo influente l'ostruzione dei locali, cosa che invece di fatti è un elemento prevalente nella costruzione del nuovo campo e nella soluzione per la chiusura invece del nuovo Kara Tepe. Ok, ma forse tra l'altro siamo anche partiti un po' in quinta, per chi si fosse perso la scorsa puntata, inquadro brevissimamente la situazione, ciò che state ascoltando. Pietro si trova sull'isola di Lesbo, lavora come coordinatore di campo per l'organizzazione Low Tech with Refugee Lesbos e ci racconta un po' la situazione del campo profughi, dell'isola, di tutto il mondo, insomma, che dal microcosmo di Lesbo poi si allarga anche ad altre situazioni, infatti parliamo un po' sia dell'isola ma come l'altra volta di politiche dinamiche legate poi al grosso tema, quello migratorio, che lo ha portato lì. E questo è il secondo episodio, il tutto è sempre accompagnato da una selezione musicale fatta da Pietro stesso. Che vedo sorridere in collegamento. Sorrido perché la prima canzone è un po' più personale, ma che riflette un po' anche il fatto che sono qui da ormai 7 mesi e la fiducia spesso viene a mancare, no? Questo pezzo è di un artista che ha collaborato con tanti artisti del folk americano. Magari più la conoscono perché ha fatto la colonna sonora di una serie TV chiamata Wiz, e il pezzo si intitola proprio Non mi interessa di fallire in questo mondo, perché questo mondo non mi dà troppe soddisfazioni, no? Poi adesso sembra molto, molto catastrofico, ma alla fine lo dice con una chitarra, un riff di chitarra abbastanza calmo da spiaggia in Costa Rica, no? Quindi è più un'accettazione del fatto che da un lato è un po' triste, perché naturalmente la situazione è così, ma dall'altro lato dice che ci posso fare io, cioè non me ne frega niente, non me ne frega niente. Io continuo a fare il mio, però di fatto anche se sbaglio non me ne frega niente. Vogliamo lanciarla così? Allora. Va Dai, sì, come prima canzone pensavo fosse la migliore. bene, allora I Don't Mind Failing, Malvina Reynolds. I don't mind failing in this world. I don't bitches, cause those who succeed are the sons of bitches. I don't mind failing in this world. I don't mind failing in this world. Don't mind failing in this world. I'll stay down here with a raggedy crew, cause getting up there means stepping on you. So I don't mind failing in this world. I don't mind failing. Don't mind failing in this world. Somebody else's measuring scale of win or lose doesn't tell the tale, so I don't mind failing in this world. I don't mind failing. I don't mind failing in this world. Somebody else's definition isn't gonna measure my soul's condition. I don't mind failing in this world. I don't mind failing in this world. I don't mind failing in this world. Never mind the custom suits, the gentle hearts wear the dusty boots. So I don't mind failing in this world. I don't mind failing in this world. I don't mind failing in this world. Some people ride in a car so fine, while others walk on a picket line. So I don't mind failing in this world. I don't mind failing in this world. I don't mind failing. In this world, don't mind wearing the ragged breeches, cause those who succeed are the sons of bitches. I don't mind failing in this world. Eccoci. E quindi parlavi di queste, di questi due episodi di rivolta degli, degli abitanti dell'isola, degli autoctoni cosiddetti, ma come hai vissuto tu, come hanno vissuto i migranti questa situazione? Insomma, dici un attimo di più, queste due settimane di cui ci hai solo accennato i due episodi, come sono poi state realmente vissute da voi che siete lì? Beh, dobbiamo innanzitutto dire, fare come premessa che comunque il lockdown affligge tutti quanti. Affliggendo tutti quanti, quindi anche questa escalation, un po' di tensione, anche frutto degli ultimi 4 mesi in cui tutta l'isola è stata sotto lockdown, addirittura alcune volte con la chiusura di tutto, del coprifuoco alle 6 del pomeriggio, cosa che per i greci è... sacrilego. Quindi in qualche modo queste due tensioni sono più che frutto di un'escalation politica e anche, vabbè, oltre ad essere quello, è anche dato da un certo senso di disperazione dato da questo lockdown che comunque affligge chiunque, no? E gli autoctoni, come li hai chiamati tu, gli abitanti dell'isola, magari reagiscono sotto questo punto di vista. I rifugiati hanno ben altro di cui preoccuparsi, e spesso con conseguenze ben più tragiche e peggiori, colpa del lockdown. Ieri un'amica mi ha girato, che lavora per un'NGO medica dentro il campo, mi ha girato un dato che è abbastanza preoccupante, forse appunto il lockdown, vorrei pensare di no, però comunque è un elemento prevalente, no? Nei mesi di gennaio e febbraio c'è stato un incremento dei suicidi del 66% dei rifugiati dentro il campo, che non è una cosa da poco e non è semplicemente da bollare come frutto di lockdown o quant'altro, ma fatto proprio da situazioni di disperazione, esasperazione totale. C'è tanta gente qua che è arrivata da veramente un sacco di tempo e benché fosse in lista d'attesa per ricevere le famose interview per poi accedere ai programmi di asilo o di ricollocamento, si è stata vista un po' sorpassare dalle stesse persone che sono arrivate dopo, perché chi è arrivato prima, nel momento che poi mora esplosa, hanno bloccato tutto e quando hanno ricominciato a riprendere in mano tutti i processi, hanno messo in cima alla lista non chi è arrivato prima, ma chi a livello prioritario, secondo il governo greco, ne necessitava di più. Quindi aumento del tasso di suicidio al 66% rispetto al 2020 nei mesi di gennaio-febbraio. Esasperazione da chi conosco, che è qui da molto più tempo e ha visto magari i suoi amici passare direttamente da Atene e invece loro sono rimasti ancora qua. La situazione è un po' migliorata a livello del tempo meteorologico, possiamo dire questo. E non è roba da poco, perché comunque si dice che i mesi peggiori sono alle spalle dell'inverno, no? Però ciò non cambia che questo sentimento di esasperazione il lockdown ha fatto aumentare, no? E quindi il dato dei suicidi e la tensione sociale, la tensione politica sociale degli indigeni è anche un po' frutto di questo, è anche un po' frutto di questo. Beh, quindi insomma la situazione è tosta, è difficile. E immagino che anche, cioè, al di là di numeri, appunto, come tu ce li passi e noi li possiamo percepire solo come numeri, ci darli di percentuali, poi si sta parlando di vite umane, e insomma, viverla lì deve essere dura. Gli esperimenti li vivi sulla pelle perché per quanto sono solamente magari capito notizie di ancora in qualche modo cioè tu vai a casa tranquillo nella tua casetta, no? Poi quando li vedi questi tentativi di, beh, poi ci sono anche modi per tirare la tensione, no? Sarebbe stupido negarlo, però quando li vedi capisci di più dei livelli terra terra davanti a te, cioè quello con appeso davanti alla clinica dove lavoro anch'io, che spesso mi ritorna in sogno, no? Ce n'è stato un secondo questa scorsa settimana. Sono richiami d'attenzione, vogliono essere semplicemente essere ascoltati, essere considerati di più, però niente chi magari è in grado di percepire il dolore in modo diverso, vederlo esplicitato così, non sei pronto, puoi essere anche se non è uno psicologo, uno psicanalista d'anima, se lo vedi, l'impressione è lo stesso ogni volta. Senti, hai voglia di raccontarci un po' quella che è una tua giornata o insomma un po' a livello pratico, forse la scorsa volta abbiamo parlato tanto ma anche di cose legate all'isola di Lesmo, però anche tanto di un po' massimi sistemi, senza entrare poi nel dettaglio di quello che è la tua giornata lì o comunque il tuo lavoro lì, un po', non so, magari è difficile una giornata, però se ci vogliamo Definire pensare. una giornata è abbastanza difficile, visto che ogni giorno succede qualcos'altro che ti cambia le priorità o che comunque ti sconvolge un po' i piani, no? Di base, tranne questi ultimi 2 giorni che abbiamo avuto problemi, la mia organizzazione e il centro comunitario in cui collaboro con la polizia, perché di fatto stanno facendo un po' di rassellamento a tappeto appena nella città quando sentono un po' dei rumori, quindi quando arriva la polizia in casa e vede 5-6 persone in epoca Covid, magari 2 o 3 non vivono nello stesso posto, partono denunce penali e multe, no? E quindi per questi ultimi giorni, per esempio, nel centro comunitario abbiamo deciso di chiudere perché sono stati beccati alcune persone, alcuni rifugiati, community volunteers, no? Rifugiati volontari che lavorano dentro il centro comunitario e per paura di ripercussioni della polizia o di retate improvvise, per 2 giorni abbiamo chiuso. Perché non Uno potrebbero stare lì, perché teoricamente, secondo le leggi anti-Covid? di base, per esempio, molto attive nel mio centro comunitario. Adesso le 2 NGO più attive sono la mia e quella del Mental Health Project. Noi di fatto lavoriamo con 15 community volunteers che, anche se hanno il permesso lavorativo per uscire dal campo e venire a lavorare con noi, di fatto non possono essere tutte 15 lì per motivi di assembramento. E lo stesso problema a quelli della Medical Volunteers International, che è quello del Mental Health Project. Di fatto le persone possono raggiungerla, la clinica, perché ha un permesso medico, quindi terapeutico, ma sono talmente tanto durante il giorno che comunque si tratta di assembramento anche lì. Per descrivere la mia giornata tipo, e soprattutto c'è stata una giornata la scorsa settimana, un venerdì, sempre parlando di abbastanza di cose triste, di parole che non vengono dette, di lack of coordination tra le varie NGO. Abbiamo lavorato per 2 giorni per costruire delle cose di legno dentro una clinica, una farmacia dentro il campo, e una volta che siamo entrati c'è stato 45 minuti di attesa per avere i permessi per iniziare a costruire, e quando abbiamo iniziato a costruire, dopo un quarto d'ora è arrivata una che diceva fosse in charge, fosse responsabile dello spazio, e ci ha detto no, no, non serve più, abbiamo già ordinato tutto per IKEA. Quindi quando anche fai le cose, progetti cose, arrivi lì nel momento di farle, soprattutto quando lavori nel campo e non nel centro comunitario, può essere che arrivi quello che ha magari il cazzo girato o la voglia di celodurismo e dice no, no, sta cosa non si può fare se non con la mia autorizzazione. Però di fatto dai, possiamo dire che comunque mi considero abbastanza fortunato, e anche la mia NGO, uno perché non lavoriamo in stretto contatto, cioè dentro il campo tutti i giorni, e quindi non ci misuriamo con questo tipo di burocrazie folli e finti coordinamenti tra varie organizzazioni. E due, perché comunque anche se il centro comunitario di fatto è chiuso, continuiamo a lavorare accettando le cose da fare al cancello senza poter permettere alle persone di entrare, ma collaborando con persone che per una via o per l'altra riescono a trovare un permesso per collaborare e lavorare con noi. Trovare una monotonia, una routine sarebbe come trovare un ago in pagliaio, non ho un giorno uguale penso da settembre. Il che è stimolante da un certo punto di vista, certo. Dall'altro è di come stai meglio, non aspettarti. Da un lato lavori per un giorno, fa una cosa e dopo dico non serve più. Da un giorno ti prepari per fare qualcos'altro e il giorno dopo ti dicono no, questa cosa qui serve solo in parte o devi farlo da un'altra parte. È un po' un brutto sistema in cui c'è uno spreco di denaro assurdo, e ma questo è molto comune nel mondo umanitario. Chi lavora nel mondo umanitario, almeno la gran parte, ha un'idea di fare del bene, che è sua e che spesso non è aperta a compromessi per raggiungere un certo obiettivo, ma dice io so farlo, io faccio così e spesso va avanti troppo col paraocchi. Ma vabbè, c'è poco da dire su questo. Infatti la prossima canzone è di un gruppo statunitense, nato tra l'altro nella stessa città di Bob Dylan, chiamano Low, e fanno un alternative indie rock, alcuni lo definirebbero slowcore, ma io non so che cos'è slowcore, però ed è una canzone che parla abbastanza tristona, una tristona che parla di parole, words, è intitolata Words, proprio perché secondo me è una cosa che manca molto qua, l'efficienza per raggiungere l'obiettivo, per di fatto essere più utile, si tratta solo di comunicazione, comunicazione. E questo spesso non avviene, soprattutto dentro il campo, tra le varie organizzazioni, perché appunto agiscono coi paraocchi, perché hanno il cielodurismo, perché hanno la loro idea che non può essere corretta, criticata o aperta a modifiche. Ed è uno dei gravi problemi dell'isola. Ma di tutto il mondo umanitario, ma nel campo di Lesbo in particolare. Non ti parlo di bieca e noiosa burocrazia, si parla proprio di quella roba mia, quindi prima di poter collaborare o fare cose, anche se sono utile, deve passare tempo, devono passare progetti, devono passare stupidi meeting in cui si discute e poi magari il problema si incrementa sempre di più. Una soluzione potrebbero essere le parole, poi ti chiedo dopo la traccia in che modo esattamente, perché siamo forse sempre tutti d'accordo su questo, anche l'altra volta parlavamo di comunicazione, eccetera, poi però come questa comunicazione. Però prima ascoltiamoci a proposito di parole, come ci consiglia Pietro, Low con Words. E quindi dicevamo le parole come soluzione. Ma come? Comunque, per, cioè, sei da 7 mesi un po' in questo mondo? Beh, in realtà anche da prima di andare a Lesbo, in una maniera o nell'altra, qualche esperienza so che l'hai fatta. Però mi sembra che hai già un po'... ti sei fatto giustamente la tua idea sul mondo ONG. E quando dici che manca la comunicazione, cosa intendi esattamente? Ma la prima esperienza che ho fatto in 2 anni in questo mondo, ne ho 18 anni, sono stato 2 mesi in Africa, in Mozambico, e lì mi sono aperti un po' gli occhi su tutto, ma ancora non avevo lo sguardo critico per poter capire bene il mondo in cui mi stavo intromettendo. Diciamo che sono stato anche frutto di alcuni, diciamo, personaggi superiori a me che durante questa esperienza, soprattutto magari in Brasile, in Grecia, prima di arrivare qua, che avevano un'opinione politica molto forte e che magari mi hanno un po' influenzato. Ma ciò non toglie che quello che ho visto è sempre stato, ovunque vai, soprattutto nel mondo umanitario, trovi numero uno, mancanza di coordinamento tra le varie NGO per raggiungere l'obiettivo, numero due, spreco di soldi. Le cose non sono così tanto correlate come uno potrebbe pensare, perché spesso quando c'è una magari non c'è l'altra, però è una cosa che si vede molto spesso. Per quanto riguarda i campi profughi, che questa è la mia terza esperienza nei campi, si vedono spesso volontari con le mani nella merda a pulire cose, a mandare avanti la vita di tutti i giorni dentro il campo, ma vedi spesso invece quelli che lavorano per UNHCR, per chi per le varie organizzazioni un po' più filogovernative che devono gestire l'emergenza, che di fatto invece magari hanno orari del tutto molto più saltuari, la maggior parte del tempo che stanno nel campo stanno lì a bersi il tè, a fare le chiacchierate, che per carità questo non vuol dire che di fatto non lavorano, ma se la polleggiano un pochettino di più, no? L'altra volta avevamo parlato anche un po' di sensibilità, che comunque se lavori nel mondo NGO dovresti avere un certo tipo di sensibilità in più riguardo a certi problemi, e questo è senz'altro vero. Ma ciò non toglie che ho trovato molto più passionale e appassionato, non passionale, il lavoro di chi non è pagato e viene per sporcarsi le mani e aiutare di fatto, hic et nunc, la gente, che invece le persone che di fatto hanno un, sto dicendo di fatto almeno 18.000 volte al minuto, hanno uno stipendio garantito dal lavoro che fanno. E questo è indubbio. Si può parlare di cinismo, si può parlare di visione politica un po' più radicalizzata, ma è comunque comunque c'è sempre c'è questa disparità di etica del lavoro. Se sei pagato in qualche modo hai più da perdere, no? Hai più da perdere, quindi sei un attimino un po' più anche a controllare le tue apparenze. Se non sei pagato, sei lì per fare il meglio e dare il meglio, no? Ed è un peccato, perché tanta gente invece che lavora tanto dovrebbe essere pagata di più. Chi invece lavora meno ed è pagata di più, alcune volte fa male vederlo, no? E quando noi parliamo di wars, di lack of coordination, parliamo soprattutto di gente che di fatto ha uno stipendio e che è in charge, che quindi potrebbe gestire le cose, dovrebbe fare diplomazia, ma soprattutto, come accade qua e come spesso ho detto, le organizzazioni umanitarie sono dei teenager in un college, in un liceo americano. Non mi siedo al tavolo con te, se non spiegato chi è quello, quello lì ha detto quella cosa una volta, non collaboro con nessuno, e questa mancanza di diplomazia, di parole dette, di collaborazione fa male non alle NGO, assolutamente no, ma fa male ai beneficiari, che sono le persone che veniamo qui ad aiutare, no? Beh sì, quindi insomma forse quello è anche un problema un po' trasversale a qualsiasi realtà lavorativa nel mondo, non solo quella delle ONG, quella dello stipendio, La grossa differenza che mi sembra di captare è, al di là anche di un lack di organization, quindi anche un'organizzazione forse tra le varie NGO, ma poi il fatto che gli effetti negativi di queste mancanze, come le stiamo definendo, fondamentalmente poi vanno a gravare su qualcun altro. Cioè, proprio, cioè lì stai lavorando per qualcosa che non è un'azienda, ma è una crisi umanitaria e forse lì diventa ancora più pesante, quindi insomma, come dicevi tu, i teenagers, diventare dei teenagers che si scazzano tra loro su un problema minimo, quando invece il problema è molto più grosso e le conseguenze le paga qualcun altro. Però insomma, poi alla C'è fine. Vai, vai. un esempio che è più di questa settimana, che anche se, capito, noi non siamo una grossa NGO con una grossa influenza, cerchiamo di frapporci in mezzo alle varie organizzazioni per cercare di creare un dialogo per risolvere un problema, no? E questa settimana mi sono incontrato più volte con due organizzazioni diverse per la gestione dei rifiuti dentro il campo. Di fatto la gestione dei rifiuti c'è una specie di riciclo, ma è fatto in modo del tutto saltuario e senza una coordinazione, quindi ci sono quattro organizzazioni umanitarie che hanno un processo di raccolta e poi di vendita, alcuni addirittura verso una ricicleria locale, ma tutte e quattro fanno lo stesso lavoro senza coordinarsi, quindi benché c'è una addirittura che ha 100 volontari solo per questo, ma la raccolta dei rifiuti, quello che loro fanno, non riciclano. E quando mettono tutte le cose nei bidoni, vai bidoni, c'è un'altra organizzazione che li prende da quei bidoni e li ricicla, li porta e poi li vende loro stessi, senza occupare tutte le zone del campo, ma solo le zone che a loro vanno più a genio. E questo porta naturalmente a uno, a una maggiore sporcizia che potrebbe essere risolta, due, a un risultato finale di coordinamento che è fa venire cadere il latte di ginocchia perché fanno tutti lo stesso lavoro ma lo fanno male e non coordinati, no? Quindi noi ci siamo infilati un po' in mezzo, visto che avevamo buoni rapporti con poi tutti e quattro, cerchiamo adesso di risolvere questa situazione, essendo appunto parte trasversale un po' di ognuno, forti dei credits e delle reputazioni che abbiamo con l'organizzazione, possiamo metterci al tavolo con l'altra organizzazione senza che le due organizzazioni si siedano al tavolo insieme, cosa che non potrebbe succedere perché si odiano a vicenda e questo è paradossale. Quindi sì, mancanza di coordinamento, sicuramente è un problema che ci hai fatto presente anche la volta scorsa. Di difficile risoluzione, perché poi andiamo a parlare di Europa e di dinamiche più grosse. Insomma, sono un po' dei riflessi di una mancanza di azione precisa e mirata, che ovviamente si vanno a specchiare su tante organizzazioni che lavorano senza parlarsi. E che quindi fanno un lavoro sicuramente meno efficace. Ma ti chiedevo prima nello specifico la tua routine perché ci tenevo questa volta a farti un po' parlare, inquadrare a chi non sa bene quello che combini su a Lesbo tra le svariate cose, come ci hai detto che fai, perché si passa da burocrazie a azioni più pratiche e via dicendo. Però insomma, il centro di cui ho visto qualche video, qualche foto, che è sia falegnameria, che recupero biciclette, che tante altre cose, cerca di coinvolgere i migranti che sono dentro il campo in attività al di fuori del campo. E volevo un attimo farti dire due cose su queste attività e sul perché sono fondamentali. Il mantra che noi seguiamo è quello di insegnare a pescare e non dare il pesce. Questo vuol dire non insegnare, a pescare, perché loro sanno già pescare benissimo, se continuiamo a usare questa metafora, ma dare il luogo e i mezzi per potergli pescare e scambiarsi le varie skills di pescaggio. La mia organizzazione è una casa madre francese, si chiama Low Tech with Refugees, e utilizzando materiali di scarto cerchiamo di creare prototipi che possono essere utili alla vita nel campo, da lavastoviglie a mano, stufe fatte con barattoli, a biciclette, a lavorazioni con legno per creare dei piccoli carretti, a riparazioni di qualsiasi genere di roba elettronica, da telefoni, casse, power banks e così via. Cerchiamo di mettere mano in tutto quello che è più o meno tecnologico. Questo per quanto riguarda magari il Makerspace, che è il nostro centro base dentro il centro comunitario e non dentro il campo. Poi cerchiamo di infilarci, ci infiliamo, spesso con risultati diversi, in quello che riguarda l'accesso all'energia e all'elettricità dentro il campo. Stiamo sviluppando adesso dei nuovi metodi per cercare di far arrivare wifi dentro il campo, che in questo momento c'è. Veramente a rilento e non per tutti, cercando di coinvolgere più organizzazioni totali, facendo passare questo mega lungo cavo dal mio centro comunitario fino direttamente al campo che è di fronte, no? A distanza di 500 metri. Da questo a poi a tutte le varie collaborazioni con le altre organizzazioni che sono infinite. Si parla di creazione di autobus da infilare dentro il campo per utilizzare come scuole, quindi noi ci infiliamo nel campo, diciamo, più elettronico per cercare di far funzionare questi autobus come scuole che poi vanno inseriti dentro il campo, alla riparazione di tutte le varie washing machine, lavatrici. Per i vari progetti di lavaggio che ci sono al di fuori del campo, ci sono tipo tre organizzazioni che fanno solo lavanderia, perché i problemi di sporcizia sono estremamente alti, diffusione di malattie, scabbia, topi, scarafaggi, qualsiasi altra cosa. Tutte le altre organizzazioni che hanno bisogno di qualcosa di prettamente tecnico, noi forniamo. L'aiuto dei nostri volontari rifugiati, che sono strettamente personale estremamente qualificato e che spesso hanno studiato, lavorato in quel campo prima di finire qua, e che quindi naturalmente ne sanno e vengono lì per fare consulenze, aiutare, tagliare i cavi, costruire quant'altro. Se c'è un'organizzazione che deve costruire un campo da calcio o da volleyball dentro il campo, cosa che è successo 2 mesi fa, abbiamo mandato quattro della nostra squadra lì a farlo. Questo è più per quanto riguarda gli ultimi mesi, no? Perché comunque in un momento lockdown il centro comunitario è chiuso, ci siamo dovuti comunque un po' anche arrangiare su come essere più utili rispetto al passato, visto che la gente che viene da noi nel centro comunitario è più per riparazioni di qualsivoglia materiale e aiuto tecnico, no? In più ci sono i workshop. Quello che vogliamo fare è appunto come creare spazi per exchange abilities and skills, no? Si scambiano, la gente arriva, vede come cosa facciamo, voglio partecipare anch'io, mi annoio a morte, non so cosa cazzo fare, vengo da voi, lavoro con voi, partecipo ai workshop, imparo cose nuove, insegno a chi non sa alcune tecniche come lavorare il legno, come tagliare il metallo, come saldare. Ironing, spot welder, no? Con le batterie. E per quanto riguarda invece le donne, più su facciamo workshop bisettimanali su cucito e usando le macchine per cucire e lavorazione della terracotta per creare ceramiche e cose che poi si portano dentro il campo perché naturalmente non possono avere utensili propri, no? Non se li posso permettere, quindi la maggior parte delle volte vengono, creano la propria cosa e poi se la portano dietro. Ultimamente, dalle migliaia di cose che facciamo, una cosa da dire, proprio, due cose che stanno spaccando sono proprio questi workshop con le donne, che naturalmente sono donne che possono venire da noi solo perché sono pazienti cliniche o madri dei bimbi, pazienti clinici che passano la giornata nel centro e che quindi non sapendo cosa fare, noi le istruiamo, gli diamo uno spazio in cui poter sviluppare le loro abilità. Ma il mantra totale è cercare di, per quanto riguarda i workshop, cercare di farli conoscere, dargli uno spazio in cui poter pescare senza insegnargli, senza dargli il pesce, no? Questa cosa funziona perché loro vengono super preparatissimi e preparatissime, hanno modo di sperimentare, fare cose anche per loro stesse e loro stessi, e come succede anche magari a tutti noi, ma anche a me soprattutto, quando c'hai mille problemi, mille cazzi per la testa, quando usi le mani ti distrai, impari, ti coinvolgi, sei in uno spazio che comunque è utile per la tua sviluppo personale, ma allo stesso tempo ti distrai, ha un effetto terapeutico che non è da sottovalutare. Beh sì, poi mi fai venire in mente quella metafora che hai fatto, che penso sia veramente azzeccatissima per le politiche di aiuto. È quello che appunto sono loro, poi mi dà fastidio usare il termine loro, però insomma è la comunità del campo, sono i migranti stessi ad avere delle esigenze ben specifiche, a sapere quello che vogliono, ad avere dei desideri loro. E uno dei più grossi problemi che c'è stato nel campo umanitario da sempre, soprattutto all'inizio, quando c'era grossa inesperienza da parte del mondo occidentale, perché alla fine si tratta molto spesso del mondo occidentale che va in aiuto di un terzo mondo. Però vabbè, comunque si tratta sempre di cioè, si è trattato soprattutto all'inizio di portare delle soluzioni, di portare degli aiuti, finché ci si è reso conti, per fortuna, che le soluzioni in realtà sono già presenti, tra virgolette, e comunque non vanno portate. Quello che va fatto sembra adesso essere diventato un po', come dicevi tu, un mantra, forse non lo è ancora abbastanza, però quello di andare ad aiutare queste persone a realizzare le soluzioni o comunque i desideri e i bisogni che hanno. Più che andare a portare delle cose. C'era un libro in cui parlando di questo si riportava come esempio questo mega schermo quasi da cinema che era stato portato in un villaggio per pubblicizzare la possibilità di prendere l'acqua da qualche parte e le persone gli dicevano: ma sappiamo benissimo dov'è l'acqua, il problema è il trasporto. Cioè, nel senso, questo è un piccolo esempio che però ti va a spiegare come, a volte anche in buona fede, però vengono portati degli aiuti, appunto, come portare il pesce a qualcuno, ma in realtà la cosa è farli pescare, ma neanche insegnarli a pescare, perché sanno come si fa, ma farglielo fare e aiutarli a rendere possibile la pesca, per rimanere nella tua metafora. Non so se vuoi che facciamo un ulteriore step musicale. Ho qui pronta la tua prossima traccia. L'Etulier è una canzone di un artista francese. In realtà non era molto consono con quello che abbiamo detto adesso in particolare, però ha un testo che è particolarmente molto vivo e anche se è francese, i non francofoni magari non lo capiscono troppo, basta andare su Google Translate, quindi svegliatevi, che è abbastanza bello. C'è un verso che adesso non mi ricordo bene in francese, ma mi ricordo c'è tipo viviamo senza riparo, avidamente, rapidamente, scrollando le spalle ai nostri capricci, no? E quando senti dici wow, tipo, è un pezzo tristone alla francese che però faceva comodo un po' quello di cui discutiamo spesso quando facciamo queste dirette, no? E l'ultima cosa che dice, l'ultimo verso, tipo, non so, la vita è diversa, sfidiamo, lottiamo contro l'acquazzone che comunque ci bagna la nostra pelle, il nostro corpo, sempre in agguato, sempre contro di noi. E l'unica cosa che ci salva, ma che ci fa stare bene, è avere un piccolo stivale. Quindi è tipo, scrolliamoci di dosso i nostri capricci, nonostante tutto abbiamo il nostro piccolo stivale, no? E il mantra del venire, lavorare, fare qualcosa che ci distragga è il nostro piccolo stivale per non pensare a tutto, ai nostri capricci, all'acquazzone che invece è sempre perenne. Ed è Colette Manie, giusto? Yep. Io, Colette Manie, allora. Nous sommes deux drôles aux larges épaules, deux joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme, sous son gros bonnet. Nous vivons en somme, on est honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec Lise ou Blanche dîner chez Richard. Nous vivons sans gîte, goulûment et vite, comme le moineau, haussant nos caprices jusqu'aux cantatrices de chez Bobino. La vie est diverse, nous bravons l'averse qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant peu de bottes et point de chapeau, nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables. Nous sommes des diables, nous sommes des dieux. Tulliere, per festeggiare un'altra oretta di chiacchierata. Stiamo sviscerando anche questa volta di cose. No, torniamo un attimo da dove siamo partiti. Quindi presente, situazione lì, due grosse proteste nelle ultime 2 settimane da parte degli abitanti dell'isola, che boh, io sì, prima ho definito autoctoni, insomma non emigranti, non i lavoratori delle ONGOs, ma chi vive da sempre sull'isola. E Ricordiamo che quindi il primo nemico degli autoctoni, come li chiamati tu, rimane il governo. Poi vengono le NGO e poi i oh. rifugiati. Beh, dai, ottimo. Mi sembra una scala comunque condivisibile. Se dovessi scegliere, mi metterei anche in questo ordine, probabilmente. Vabbè, no, e quindi la domanda che volevo farti è com'è la situazione ora e come state interagendo. Cioè, qual è il vostro ruolo quando ci sono anche episodi di questo genere? C'è una specie di passaparola molto molto ampio tra tutti i lavoratori dell'NGO quando queste cose succedono, naturalmente qualche giorno prima, e tutti vengono informati che queste manifestazioni succederanno, no? Soprattutto perché nel passato ci sono stati seri problemi, proprio casi di harassment e di violenza contro i lavoratori NGO che sono facilmente spottabili tra la folla o tra le vigili della città, no? Quindi quando queste cose succedono, tutti ricevono un messaggio da chi dovere che dice: guardate che ci sarà questa manifestazione in quest'area designata il giorno tale, quindi evitate di farvi vedere lì. Adesso, ripeto, la situazione è un po' più meno tesa rispetto in passato. Prima, se tu ti presentavi in una di queste manifestazioni, un paio di sassi, pugni, screzi, litigi, spintoni, botte, ti arrivavano. E soprattutto per quanto riguarda le volontarie femminili, le volontarie spesso invece finivano veramente anche a sfondo sessuale su veramente violenze che non sono assolutamente giustificabili da niente, no? E quindi c'è questo passaparola che sempre passa appena queste cose succedono. Io, come citavo anche l'altra volta, ne ho vissuto un po' sulla mia pelle, ma perché era la situazione di Moria, no? E quindi quando era esplosa era proprio un tonfo totale, un mega buco, una situazione di emergenza che ha fatto scaldare gli animi a tutti, e quindi di sassi contro i furgoni, di strade bloccate, ne ho viste e le ho vissute un po' più in quel periodo lì. Adesso, non dico che cammino a testa alta, sfoggiando il mio fare mediterraneo europeo, non greco, però in qualche modo sono anche alto 2 metri, forse la gente non è che ha troppo voglia di rompermi le scatole, piuttosto che invece una volontaria, magari che all'apparenza potrebbe sembrare più vulnerabile agli occhi dei locali, però comunque. È un po' meno tesa, un po' meno tesa, però c'è questo scambio, c'è questo passaparola, c'è questo sentimento di stare tutti sull'allerta perché le cose possono succedere. Sia dal punto di vista locale, sia con la polizia, perché la polizia greca è ben rinomata per essere particolarmente, diciamo, fa quel cazzo che vuole, fa quel cazzo che vuole. Anche se non dovrebbe e ha dei limiti, qui li sorpassa in modo abbastanza in nonchalanza. La mia lingua italiana sta pian piano descendendo, diventando un cocktail di termini e espressioni un po' miste, però Questo è un po' derivato da nonchalance. la nonchalance, esatto. Nonchalanza. Ma la presenza della polizia è anche a livello proprio visivo, cioè c'è una presenza forte. La presenza visiva è forte, sì. Quando vai entro e vado dal campo, comunque devi avere una giustificazione, devi essere dentro una lista, che non sai essere dentro la lista, ti fanno degli schermi, ti bloccano. Se anche sei dentro la lista che ti permette di entrare come registrato per andare e vieni, ti possono rompere le palle e ti possono dire no, tu oggi non entri. E per quanto riguarda, attorno al campo è sempre pieno. Per quanto riguarda invece intorno alla città di Mitilene e magari il mio centro comunitario, essendoci sempre un andirivieni di gente del campo che va e torna da Mitilene al campo, che distano più o meno 3 km, è sempre lì, soprattutto adesso in periodo di lockdown, che fermano gente a caso per controlli di permessi e non permessi. In più, nel porto di Mitilene ci sono 3 grandi navi della Marina greca, sia per i problemi di scherzi con la Turchia, ma sia per i famosi pushback, no? In cui chi prova a venire dalla Turchia con i barconi, spesso sfruttando il favore delle tenebre, viene rimandato al mittente dalla stessa guardia costiera greca. Ma c'è anche Frontex, naturalmente, no? È parcheggiata da più o meno un mesetto e mezzo una barca della Guardia Costiera italiana, con bandiera italiana, guardia costiera, equipaggio italiano, che sono però membri del progetto Frontex, e ce n'era una portoghese prima, quindi al di là delle misure anti-Covid che vanno rispettate e quant'altro, c'è nettamente un numero visivo di poliziotti che vedi che è ampio ed è importante. Non ci si può nascondere dietro il fatto che è solo il lockdown che ha incrementato la presenza di polizia. Ce n'è. Prima, ricordiamo, era una situazione diversa, ce n'era il doppio, c'era l'esercito, c'erano tensioni sociali e politiche molto più pesanti e molto più difficili da contenere, quindi erano ancora di più, ma adesso comunque rimangono sempre ben lì, ben visibili, ovunque tu vada. Poi tu l'hai vissuta in periodo Covid, cioè non c'eri prima, però cioè, quando parli di prima ce n'era di più, intendi prima poi. Agosto, in agosto, settembre, ottobre e i primi di novembre non c'era lockdown, Covid, quindi la gente faceva un po' il cazzo che voleva, Ok, quindi no, quando dici che prima ce n'era di più, quando che. prima di più parlo di febbraio, un anno fa, quando di fatto il Covid non c'era ancora e però le tensioni sociali sull'isola erano molto più elevate e appunto le violenze erano più all'ordine del giorno, quando ancora Morre non era il lockdown, prima ancora che poi tutto è sfociato nell'incendio del mio centro comunitario. A marzo il mio centro comunitario è stato completamente bruciato da un gruppo di fascisti, ed è stato la bocca, cioè è stata l'ultima cosa che ha fatto proprio mandare tutto in escalation, ha gettato sempre più l'isola un po' nel panico per quanto riguarda questa tensione tra il lavoratore NGO, governo, locali e rifugiati. Quindi quando parlo di prima, parlo di quel periodo lì, in cui io non ero qua, ma le storie che si raccontano in quel periodo erano molto molto più violente che adesso. Nonostante invece, capito, settembre-ottobre siamo arrivati a un livello di violenze e di tensioni simile, ma poi è andato via via più scremandosi per esigenze di lockdown e per un certo tipo di acquietamento con il nuovo campo chiuso, più controllato. Va bene, allora ti vedo fare delle facce fantastiche mentre parliamo. Perché si parla di Ma cose serie, si parla di cose serie, ma allo stesso tempo quello stivaletto, secondo me, anche un po', è quello lo stivaletto di cui stivaletto, parlavi prima è necessario. La prossima traccia, Bravo, giusto per bravo. così faccio il tuo lavoro, è una traccia un po' autocritica. Philox, con tutti considerato uno dei più grandi del folk americano, però un po' più sfortunato rispetto a Bob Dylan, che non ha avuto il tuo stesso successo, era meno un po' e meno hippie e più strettamente legato a un gruppo un po' più colto, se vogliamo, politizzato e meno hippie, meno da ramingo, da viaggiatore, no? Philox è un genio, secondo me è uno dei più grandi in folk americano. E questa canzone è un po' un'autocritica, verso, cioè, io la considero un po' un'autocritica perché mi sono sempre considerato più molto liberale e spesso, anche se sono, mi considero di sinistra, alcune mie opinioni, alcuni miei pensieri sfociano più sul liberal di centro piuttosto che strettamente di sinistra, no? Nonostante io abbia molte idee che sono l'antitesi di quella destrorsa. In In questo questi pezzo è un po' un'autocritica. tempi una dichiarazione forte, eh? Ma lo so, lo Perché so. la sinistra è già di per sé neanche più di centro e liberal ormai. Però No. va bene, tu dici in generale, considerando la sinistra storica. Sì, che considerando la sinistra storica e le battaglie storiche della sinistra, che adesso purtroppo. Chi le porta avanti? Boh, ne conosci qualcuno? Non vedo nessuno che le porta avanti le battaglie. Questa è un po' un'autocritica anche contro me stesso, no? Che spesso comunque nelle opinioni che abbiamo e che ho, soprattutto io, mi rendo conto che funzionano se hai un certo tipo di mindset, se sei cresciuto con un certo tipo di mindset, e quindi non vivendo determinate realtà faccio fatica a non essere più radicalizzato di quanto, parlando di stando a sinistra, no? Di quanto invece dovrei essere per cercare di portare avanti determinate battaglie, no? E Philox in questa canzone si chiama Love Me, I'm a Liberal, cioè si prende anche un po' gioco dei liberal dicendo ah, sono per i diritti dei neri, però se non vivono di fianco a casa mia, vorrei che tutti gli extracomunitari diventassero una star, però non parlatemi di rivoluzione perché è già troppo. È una serie di questi testi, di questi versi, no? Dice, ah, voto per il Partito Democratico, però assolutamente non canto canzoni di proteste, di rivoluzione. È un po' questo, no? È un po', io dico autocritica perché so benissimo che comunque certe battaglie vanno combattute in fondo per ideali, anche se è un po' le ideologie stanno un po' soccombendo adesso, per fortuna. E nonostante che io cerchi di arrivare a un tipo di centrismo ogni volta, in medias tat virtus, sa benissimo che nel mondo c'è bisogno di anche di gente che lotta per idee e opinioni che spesso vanno contro un certo tipo di diplomazia da centrista liberale. E quindi l'avevo messa così, no? Cioè, sì, sono un lavoratore dell'NGO, lavoro qui, faccio questa roba qui, ma dentro di me sono sempre un maschio etero bastardo, bianco privilegiato, no? Quindi questo non me lo toglie più nessuno, purtroppo. Beh, se non sei un rivoluzionario, comunque penso che una piccola rivoluzione che in quanto individuo puoi fare è quella di essere il più possibile autocritico e autoironico. E devo dire che in questo comunque tu hai una bandiera che porti avanti. Va bene, con questa lancerei Love Me, I'm a Liberal di Philox. In every American community, you have varying shades of political opinion. One of the shadiest of these is the liberals. An outspoken group on many subjects. 10 degrees to the left of center in good times. 10 degrees to the right of center if it affects them personally. So here then is a lesson in safe logic. I cried when they shot Medgar Evers. Tears ran down my spine. And I cried when they shot Mr. Kennedy, as though I'd lost a father of mine. But Malcolm X got what was coming. He got what he asked for this time. So love me, love me, love me, I'm a liberal. Get it? I go to civil rights rallies and I put down the old DAR. DAR, that's the Dykes of the American Revolution. I love Harry and Sidney and Sammy. I hope every colored boy becomes a star. But don't talk about revolution. That's going a little bit too far. So love me, love me, love me. I'm a liberal. I cheered when Humphrey was chosen. My faith in the system restored. And I'm glad that the commies were thrown out from the AFL-CIO bar. And I love Puerto Ricans and Negroes as long as they don't move next door. So love me, love me, love me, I'm a liberal. Ah, the people of old Mississippi should all hang their heads in shame. Now I can't understand how their minds work. What's the matter, don't they watch Les Crane? But if you ask me to bus my children, I hope the cops take down your name. So love me, love me, love me, I'm a liberal. Yes, I read New Republic and Nation. I've learned to take every view. You know, I've memorized Lerner and Golden. I feel like I'm almost a Jew. But when it comes to times like Korea, there's no one more red, white, and blue. So love me, love me, love me, I'm a liberal. I vote for the Democratic Party. They want the UN to be strong. I attend all the Pete Seeger concerts. He sure gets me singing those songs. And I'll send all the money you ask for, but don't ask me to come on along. So love me, love me, love me, I'm a liberal. Sure, once I was young and impulsive, I wore every conceivable pin. Even went to socialist meetings, learned all the old union hymns. Ah, but I've grown older and wiser, and that's why I'm turning you in. So love me, love me, love me, I'm a liberal. Eccoci qua, stavo pensando che probabilmente ti darà fastidio perché so che non è quello di cui vuoi parlare di più, però secondo me ce lo butto anche in mezzo. No, volevo capire, tipo adesso tu dove stai vivendo, con chi, come sei organizzato? Allora, tanti di noi che lavorano per l'NGO, il classico, il vecchio classico è la shared house, no? Un appartamento condiviso in cui magari ci sono chi ha la propria stanza, chi no, ma si condivide la casa. Ho cambiato casa e coinquilini volte ormai, da quando, no, cinque, da quando sono qua. E, ho sempre vissuto in shared house, tranne il primo mese in cui vivevo da solo. Adesso vivo, naturalmente come la maggior parte di noi, a Mitilene, proprio nel capoluogo, e vivo con tre persone che naturalmente lavorano per altro NGO e che ci siamo trovati a caso, c'è questo gruppo famoso di NGO workers che si scambiano housing, proposte di casa e di affitto. E devo dire che la cosa è abbastanza fica. In epoca Covid è sempre un po' sbatti, ma in epoca non Covid c'è uno scambio di culture, organizzazione, lavori diversi che è molto stimolante. È molto stimolante. Beh, poi anche per quello che dicevamo prima, magari in parte, no? C'è questa mancanza di coordinamento tra NGO. Voi il fatto di assolutamente. Assolutamente, molte collaborazioni che partono tra vari progetti nascono magari da gente che si conosce prima al bar, ma soprattutto anche in casa, no? Sapere che lui collabora con quella cosa e tu hai un problema di quello relativo tipo, vai direttamente a lui e dici: senti, ma tu che fai questa cosa qui, come potresti darci una mano? E la cosa è bilaterale, no? Ed è molto molto bella, anche se vivere in una shared house non sempre fa per tutti, e soprattutto per chi è rimasto qui per tanto tempo. Ho notato che c'è stato questo punto di rottura in cui dall'inizio shared house tutti insieme, comunque non è che non è una comune, comunque sono tutti appartamenti, no? Cioè, c'è chi vive comunque in stanze dipende da, appunto dalla situazione economica di ognuno. Ma c'è chi a un certo punto, avendo alle spalle tanti mesi di share house, ha detto: ma sai cosa faccio? Io a me in realtà vedo così tante persone durante il giorno e soprattutto esco e faccio le cose, vedo i miei amici, che l'unica cosa che voglio fare quando torno dal campo, lavoro con i rifugiati, è andare a casa mia e vivo da solo. A me non è ancora successo, prima o poi succederà, non lo so, io odio vivere da solo, ma magari succederà, però è una cosa che succede, è successa a molti qui, soprattutto a quelli che sono rimasti qui per un botto di tempo. E per lo più sono, cioè, mi parlavi di tante culture con cui si viene a conoscenza e contatto, per lo più, insomma, chi lavora nelle NGO sono tutti occidentali, mi immagino italiani, francesi, tedeschi, o abbiamo un po' più un mix. Appunto no, allora, a parte il fatto che gli italiani ce ne sono pochi, ce ne sono sempre stati pochi, la maggior parte qui sono tedeschi e francesi. Tedeschi e francesi, poi vengono subito gli inglesi, però ci sono tanti anche spagnoli. Però dentro queste shared house, molte, molte delle volte ci sono i letti abitati da gente che sono volontari rifugiati e che quindi per privilegi vari, per relazioni e quant'altro, di tempo o di qualità personali, hanno un lavoro, spesso come translator, e con quel lavoro possono pagarsi una casa, sai, un appartamento, no? E quindi io stesso ho vissuto con afghani, iraniani, siriani, pakistani, camerunesi, che vanno e vengono. Queste shared house sono fatte in modo che, comunque, essendo l'isola un po' un aeroporto, dipende da chi va e chi viene, siano facilmente interscambiabili le stanze, no? E quindi magari per in 3 mesi vivi con 30 persone diverse senza mai lasciare la tua stanza. E questo ha a beneficio di multiculturalismo, scambio e di differenze di età, visioni, opinioni e di conoscenze, ma allo stesso tempo ti fa sentire un po' tutti sulla stessa barca, che stiamo lavorando tutti per la stessa cosa, sia tu che vieni da Milano centro e abiti lì, che tu afgano che lavori come translator e che hai un'esperienza completamente diversa dalla mia. Ok, ma quindi parli di afghani rifugiati volontari, translator o per altri lavori, possono permettersi un appartamento. Questo mi porta a chiederti, ma quindi c'è una questione economica che va a superare la questione che penso sia più burocratica, per cui tu sei nel campo o no? Cioè, tu puoi permetterti un appartamento perché hai questo lavoro e quindi ok, puoi prenderti una casetta a Militene e non stare nel campo? O ci sono delle altre sfaccettature, insomma, della cosa che non mi sono Molti chiare? delle persone, rifugiati volontari con cui ho vissuto, è gente che il lavoro più pagato qui se sei un rifugiato è se sai l'inglese o il francese, no? E quindi fai da translator. L'unico lavoro pagato bene, diciamo, pagato bene, cioè pagato una miseria, però bene in quanto rispetto all'isola, è il lavoro di translator. E quindi se tu sei bene all'inglese, hai servito dentro il campo. Cioè, una volta che esci e trai il tuo stipendio e non hai voglia di tornare dentro il campo, ti prendi in affitto una stanza che spesso condividi con un altro, quindi capito, un letto No, dico. ma questo mi è Quindi chiaro. c'è Quello questo. che non capivo era, che non capisco è il fatto, cioè, messa come la stai mettendo, sembra quasi che, ok, una volta che per fortune varie o capacità varie che ti portano ad avere un lavoro, tu hai un'entrata economica, ti basta quella per poter uscire dal campo e prendere un appartamento? Cioè, la tua condizione di vita nel Non campo. legalmente al 100%, non legalmente al 100%, lo fai perché ne hai bisogno e non ne puoi più stare dentro il campo, ma di No, ok, ma puoi uscire fatto così? basta, lo fai. Tu hai le tue 2 ore durante il tempo in cui puoi uscire adesso, durante il lockdown, tu esci e non ritorni più. Nel momento che ritorni nessuno fa domande. quindi a livello di, che ne so, documentazioni, eccetera, tu no, teoricamente non potresti quello essere. zero, no, quello zero, non potresti essere, non potresti essere. Ma lo fanno perché non ne possono più di stare lì e quindi avendo da parte qualche soldino e guadagnandolo si possono permettere di fare questo discorso, ma è una cosa che riguarda l'1% delle persone del campo, il 10% se vogliamo esagerare proprio, se hanno trovato lavoro come translator all'interno del campo per diverse organizzazioni, perché le diverse organizzazioni fanno recruiting su questo, no? Hanno bisogno di translator per le diverse funzionalità. Se ne trovano e tu sei un profilo buono per loro, ti pagano e se tu non ne puoi più, prendi e te ne vai dal campo, ma non perché hai documentazioni o sei più in regola, semplicemente perché lo fai perché ne hai bisogno. Sì, no, che okay, era questo, quindi fondamentalmente tu sei un clandestino, così vieni definito dallo stato in cui sei, però ti puoi permettere economicamente di prendere un appartamento. Però fondamentalmente... Il primo processo è quello di cercare di arrivare, quando arrivi qui sull'isola, è di avere questa cosiddetta interview, no? Nell'interview ti verrà detto se sei, maggior parte delle volte succede dopo 6 mesi che arrivi, se non di più, ti dicono, ah ok, puoi richiedere l'asilo, ah ok, forse ti possiamo spostare in Europa tramite il ricollegamento, oppure venire gettato. Se non vieni rigettato, la prima cosa che ti viene accelerata è l'avere l'ID, la carta d'identità. Ti viene Cioè, il data all'inizio. riconoscimento di status di rifugiato, fondamentalmente questo, no? Esatto. Che poi non vuol dire naturalmente passaporto, perché il passaporto è un altro passo ulteriore, passano altri 6 mesi e così via, no? Però c'è da dire che anche chi viene rigettato fa appello per un'altra interview e spesso alcune volte con quell'appello invece è fortunato. Questo processo dura mesi, mesi, mesi, mesi, mesi. Se arrivi qui sull'isola, inizialmente o sei veramente, veramente fortunato, se no prima di 9, 10, ma un anno non hai risposte, non hai accesso alla famosa prima interview che ti viene concessa. Ok, qui perdona la mia ignoranza, ti faccio questa domanda. Cioè, praticamente se ti viene riconosciuto dopo una serie di interviste, di cui tra l'altro appunto per molte persone che hanno studiato nel mio campo di antropologia sono finite a fare questo ruolo un po' da interpreti barra interpreti culturali nel momento delle interview, però vabbè, ti viene riconosciuto questo status. Tu a quel punto sei comunque obbligato, con lo status di rifugiato riconosciuto, eccetera, eccetera, a stare dentro il campo? Sì, O sì. Ok, questo è sì, non c'è incredibile. senso ma, non c'è senso ma, cioè comunque adesso che c'è un campo solo, tu se sei rifugiato comunque devi stare dentro il campo, o sei un paziente, una persona vulnerabile o fragile che l'UNHCR decide usando il tuo profilo e ti mette in una casa dell'UNHCR, ma veramente sono casi veramente limiti. Altrimenti tu devi stare dentro il campo. Se sei un rifugiato, il campo è quello, il posto in cui devi stare, non c'è altro posto. E tutta la gente che riesce a vivere in città o ha già terminati i permessi, carte d'identità, passaporti, comunque decidi di rimanere, o sei una persona che è appunto vulnerabile, fragile, secondo i criteri dell'UNHCR, ti mettono dentro e ti possono mettere dentro una casa UNHCR. La casa UNHCR, ci sono state più volte, sono 3 stanze e 10 persone, quindi non è neanche troppo una bella pacchia. Ma in ogni caso il problema sta proprio qui. Il governo, se sei un richiedente asilo, ti vuole in un posto soltanto, nell'isola, ed è il campo. Se poi vieni mandato a Atene, anche lì sei fermo e bloccato in un hotel e non ti muovi, non puoi lavorare, non puoi fare niente. Perché spesso quello che succede è che alcune delle cose, soprattutto nell'ultimo periodo, accelerano il processo di richiedente asilo, ti mandano ad Atene e poi ad Atene, per un cavillo o qualsiasi altra cosa, dicono ah, questa cosa non va bene, ti rispediscono. altri sì. paesi. Ma perché appunto quello che mi fa cioè, mi sembra veramente assurdo è va bene il grosso problema di questi mesi che passano dal momento in cui tu arrivi al momento in cui ti viene riconosciuto uno status. E vabbè, è un grosso problema, però è diciamo anche giuridicamente comprensibile sotto certi punti di vista. Quello che diventa assurdo, secondo me, è nel momento in cui ti viene riconosciuto lo status, che comunque non diventi, tra virgolette, un libero cittadino, in cui ok, ti possono dire, guarda, se hai bisogno, stai in un campo che teoricamente dovrebbe essere costruito come aiuto. Ma se vuoi, vai, prenditi una casa, fai quello che vuoi, se hai i mezzi, la voglia, eccetera. Cioè, è come. Mi sembra che questo aspetto qua sia interessante perché è proprio quello in cui più palesemente di altri il campo si trasforma in una prigione, piuttosto che in come vengono chiamati in Italia, centro d'accoglienza. È abbastanza. Ci sono dei cavilli, delle complicanze che magari anch'io stesso comunque fatico a comprendere e di cui non sono informato al 100%. Però questa è una realtà, è fattuale, nel senso, una volta che tu hai accesso come richiedente asilo, non è automatico che tu di fatto diventi un rifugiato di livello superiore. Devono passare altri mesi, devono passare altre accertazioni, e chi magari ha ricevuto buona notizia, notizie positive dalla famosa intervista, che quindi possono richiedere, sono diventati dei richiedenti asilo, passano mesi che ancora tu rimani dentro il campo, nonostante tu abbia dei documenti un po' più in regola rispetto agli altri. E questo fa sbattere la testa contro il muro a noi che lavoriamo con loro, perché quando arriva una buona notizia, è una buona notizia. Però è una buona notizia per chissà quanto tempo. E non è ancora detto, perché spesso appunto vengono mandati ad Atene e ad Atene si inventano una nuova cosa che ti rigettano e ti dicono non va più bene quella cosa lì. Adesso il governo greco è un po' più destrorso, cioè Nuova Democrazia che è in potere da un anno a questa parte, più di un anno a questa parte. Come accennavi magari l'altra volta, creando una politica di asilo un po' più ristretta, no? E soprattutto l'Europa non dà una mano. Non c'è troppo un futuro roseo che sistemi questa situazione. Non c'è all'orizzonte e non c'è neanche nei pensieri più positivi che i politici magari che si battono per questo tipo di diritti possono avere. È così, è brutto e triste, è così. Ma come abbiamo discusso anche l'altra volta, ci sono un sacco di problemi in ballo, l'Europa è un po' succube degli stati membri, non può troppo decidere da sola, non ha troppo questo potere. E gli stessi stati membri che sono i primi stati in cui magari i rifugiati arrivano, parlo di Spagna, Italia, Ungheria e Grecia, devono attuare delle politiche per difendere anche i loro confini, no? E non per accettare chiunque. Non sto dicendo che sia giusto, sto dicendo che lo fanno per interessi che vanno al di là di quelli che possiamo comprendere io te, nonostante abbia ideologie simili per quanto riguarda accoglienza e integrazione. Potremmo stare qui a parlare di politica quanto vogliamo, lo sappiamo. Benché tu sia una persona ottimista, non puoi vedere ottimismo e una risoluzione nel breve termine, ma neanche nel lungo termine per questo tipo di problema, nonostante sia il problema, uno dei problemi più grandi che il mondo si trova ad affrontare e si troverà ad affrontare sempre di più con anche i cambiamenti climatici, che adesso sono comunque un numero elevato. Ci sono tanti che scappano da guerra, povertà, situazioni familiari vari, rifugiati politici, ma tanti loro sono anche rifugiati climatici. Quindi è un problema che stiamo vivendo tuttora, ma che la soluzione è ancora più lontana da quanto possa sembrare. Sì, poi vabbè, cambi climatici, in questo periodo abbiamo anche l'emergenza sanitaria e devo dire che effettivamente, tra l'altro, l'Europa, tra le tante mancanze di cui abbiamo anche già parlato la scorsa volta, in questo periodo sembra, nel bene e nel male, un po' fuori dalle dinamiche, da tutte le dinamiche migratorie, almeno e soprattutto per quel poco che ne so io, quindi sulle grosse testate giornalistiche, eccetera. E questo mi fa venire in mente un libro che, tra l'altro, mi fa piacere consigliare, che è Lo spettacolo del confine di Paolo Cuttitta. Bella là. Perché parla proprio della spettacolarizzazione che viene fatta di questi confini. Lui poi parla in realtà nello specifico di Lampedusa, però penso che sia un discorso che sia abbastanza valido anche per altre realtà simili, come può essere quella di Lesbo, e comunque appunto di questa spettacolarizzazione mediatica soprattutto, ma poi in realtà anche politica, del confine in certi momenti. Quindi io penso banalmente a quest'estate in cui l'emergenza sanitaria era per un paio di mesi svanita e di nuovo si parlava di migranti in Italia e di nuovo Lampedusa era un po' al centro delle cose, poi è scomparso tutto, poi è di nuovo stato messo sotto il letto il problema. E non voglio dire con questo, perché non ne so abbastanza, che l'Europa faccia lo stesso dei media e che quello che la cultura di massa recepisce poi sono... Però insomma, secondo me è un po' anche così, nel senso che di sicuro tra le tante problematiche che ci sono, in questo momento c'è un po' di menefreghismo a livello generale. E soprattutto l'opinione pubblica qui era molto forte quando Mora esplosa, no? I riflettori sono stati nuovamente ripuntati sull'isola, sì, ma ciò non toglie che di fatto anche la settimana scorsa altri 80 arrivi ci sono stati durante gli ultimi 4 mesi. Ci sono stati più o meno 150 persone ogni mese che arrivavano sull'isola, ma quindi si vanno a ampliare a tutti gli altri problemi che invece per esempio la Spagna sta vivendo ultimamente. La Spagna sta vivendo una quantità di arrivo di migranti che è molto più elevato rispetto a quello che aveva prima, no? Si stanno creando nuove rotte migratorie. Non è un problema, non è una cosa che è destinata a diminuire, è semplicemente ha perso interesse naturalmente perché, come dicevi tu, cultura di massa, media e quant'altro preferiscono parlare di quello che è più il problema sotto casa più che un problema generale. Lo schifo viene fuori solo quando magari non c'è altro schifo, maggiore schifo di cui parlare. La Spagna soprattutto in questo periodo ha le Canarie, stanno arrivando un sacco di gente, anche perché vabbè, si è scoperto finalmente che passare per la Libia non è una bella idea, ma anche in Italia aveva fatto scalpore qualche settimana fa i processi contro Linea d'Ombra, che è questo gruppo di questa coppia triestina che lavorava a stretto contatto con il confine sloveno per aiutare i migranti, ed è stata criminalizzata questa coppia, no? Questo processo, perché di fatto aiutava l'immigrazione clandestina, ma non è più un argomento che piglia naturalmente quando c'è un contesto globale di pandemico che può essere discusso al bar in modo più terra-terra. Sì, sì, ma poi anche quando piglia, cioè questa spettacolarizzazione spesso piglia anche nel modo sbagliato, cioè tant'è che non è neanche solo negativo che non se ne parli, nel senso che quando se ne parla ormai se ne parla per finalità politiche e per andare quasi contro al fenomeno, come se fosse una cosa a cui si può essere pro e contro, almeno questo in Italia. Poi sì, quando non ci tocca direttamente, come è stato per Moria, che è stato sulle prime pagine dei giornali per qualche settimana, magari c'è anche un po' più di, prevale forse anche un po' più di sentimento, di compassione quasi, chiamerei. Ma quando poi diventa qua vicino, purtroppo sembra prevalere più voti per i politici che fanno campagna elettorale contro, diciamo, questo fenomeno, come se si possa fermare, che E gli altro. stessi, governi che prima si definivano un po' più progressisti, allo stesso tempo stanno anche cambiando il linguaggio con cui definiscono i fenomeni migratori. Ho visto un'intervista l'altro ieri di un ministro di Macron che era in un dibattito con Marine Le Pen, nota nazionalista francese, e quando parlavano di migrazioni, a un certo punto la linea del ministro di Macron era più dura di quella del ministro, di quello della Le Pen. Mentre la stava spiegando, c'era la faccia di Marine Le Pen che diceva: io come questo, come cazzo gli rispondo che in effetti sto dicendo una cosa più giusta per i miei elettori di quanto in realtà potrei dire io. C'è una sorta di anche perché è proprio vissuto forse ultimamente negli ultimi anni, e quindi si stanno creando sempre più fazioni, sempre idee un po' più forti. L'uomo forte è sempre piaciuto, no? È le persone che riescono a vedere al di là del proprio naso. E i governi che si definivano progressisti per attaccarsi ai propri elettori comunque hanno cambiato il loro discorso, hanno usato toni più duri. Non è che piace di più perché preferiscono una linea dura sulle migrazioni per cercare di salvaguardare invece le loro colpe nella gestione di integrazione e accoglienza, e essendo più duri sui fenomeni migratori danno anche l'immagine di essere più consci dei problemi dei loro cittadini piuttosto che del mondo in generale. È ipocrita, lo sappiamo. Politica fa cagare, però per quanto mi riguarda a me piace lo stesso, per quanto faccia cagare, fa politica sulla vita delle persone, quindi è estremamente avvilente e magari anche sbatti ascoltarmi per 2 ore che parlo di cose tristi, però sono cose che succedono, e anche se magari chi ci ascolta già per presente queste cose, come la situazione, le cose che non vanno, star lì a rigirare, a parlare di altro, quando in realtà l'unica cosa che dovrei parlare io è di loro, no? Di gente che soffre. È quello che bisogna fare, è quello che bisogna fare perché è l'unica cosa che fa addrizzare le persone, no? Possiamo parlare di progetti innovativi, nuovi metodi di integrazione, quell'NGO che fa quello, l'altro NGO che fa quell'altro. Ma alla fine la situazione del campo rimane la stessa di un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, se non peggio. E quindi bisogna sempre mettere i puntini sulle i e sottolineare bene bene come base il fatto che la prima cosa è che queste persone vivono di merda e non ci sta, si sta facendo quasi niente per aiutarle. Va bene, mi fa piacere questa tua premura comunque verso i nostri ascoltatori, ma credo che, spero che non si stiano troppo, non annoiando, ma neanche tu parli di cose tristi fino a un certo punto, comunque di realtà, come hai detto spesso oggi, di fatti. E no, dai, ti faccio poi introdurre un attimo la penultima canzone della puntata. E no, poi preparati perché poi ti lascio come ultima cosa un po' un messaggio tuo, un po' uno spazio libero tuo. E sì, penultima, perché ne mancavano tre, ma alla fine una l'abbiamo tolta e dovrebbe essere giusto. Dimmi se sbaglio. Allora, sì, Thanasis, Papa Costantinopoli del mondo, cercato di mettere insieme due culture differenti, una che è quella della musica tradizionale greca e l'altra che è quella del rock, chiamiamo rock generalmente, così non mi sbaglio. Questo pezzo non ha un particolare senso correlato a quello che stiamo dicendo, ma è un pezzo che mi piace, ok? Quindi magari basta l'ansia. Per quanto riguarda Atanasio il Papa Costantino, è un po' un mezzo idolo qui perché credo sia di famiglia di Mitilene, ma non vorrei sbagliarmi. Ma mette assieme appunto questi due mondi, no? Il vecchio mondo tradizionale e il nuovo che avanza, che comunque va integrato, no? E quindi magari questo mix di vecchio e nuovo, che non fa mai male ripetere, che in realtà è la realtà di tutti i giorni, no? È inutile guardare troppo al passato, è stupido guardare troppo al futuro, devo vivere al presente, hai bisogno di entrambi. E quindi ci sta, secondo me, portarlo qua. Ascoltiamola allora. Φυσικής το πυρωμένο κέντρο Άιντε δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο Άιντε πέφτει λάβα, λάβα τα φιλιά τους Άιντε και φτερά πολυθωμένα τα κορμιά τους στην Ανδρομέδα Άιντε πίνουν σίπουρο και ρόλα και έλα Άιντε κάτι όντα περιέργα κι ωραία Άιντε που είναι μόνα και ψάχνουν για παρέα Άκαρπη με λούνα Άιντε φύτρωσε, φύτρωσε μια παπαρούνα Άιντε που έχει στόμα, στόμα και δαγκάνι Άιντε κι όλο λέει πως δεν το ξανακάνει Βαθιά, βαθιά στα σωθικά μου Άιντε κάτι γίνεται κυρά μου Άιντε χίλια άλλο κάτι πλαγυρίζουν Άιντε έξοδο ζητάνε και μαλώνει δυο μέτρα βάθος Άιντε λένε πως φυλακίζουνε με το πάθος. Άιτε ρίχνουν χώμα με λουλούδια ρένουν. Άιτε και θα ρουν πως ξεπερδεύουν. Vogliamo sfinire, quindi come ti dicevo prima ti lascerei, se hai voglia, poi appunto come è, un piccolo spazio per dire due cose tue, senza che io interrompa con domande stupide, e magari così tiriamo anche fuori qualche argomento da approfondire poi nelle prossime puntate. E poi lanciare la traccia conclusiva dell'episodio. Allora, come messaggio finale, un messaggio a tutta la popolazione occidentale, quindi un piccolo pubblico. Allora, noi siamo abituati come cultura occidentale ad avere bisogni, desideri, che sono maggior parte delle volte desideri, e non sono veri e propri bisogni o necessità. I desideri ti spingono a fare cose che alcune volte in realtà non vogliamo e ci imbuttano sulla brutta strada, no? Perché desiderio è qualcosa in più, è qualcosa che nonostante hai, desideri qualcosa che non hai. E una cosa che invece aiuterebbe la nostra mentalità occidentale, non che quella orientale sia perfetta assolutamente, una cosa che ci aiuterebbe a migliorare è smetterla di bramare, smetterla di desiderare, ma di riallacciare il rapporto che abbiamo con i nostri bisogni e necessità. Se arriviamo a comprendere che le nostre necessità potrebbero essere il nostro veicolo per permetterci di avere un sacco di possibilità diverse, capiamo che forse possiamo fare a meno dei desideri. Vedendolo qua sulla pelle delle persone che per necessità si sono messe a fare cose che poi nel bene e nel male magari gli hanno portato a migliorare la propria vita, comprendo che la maggior parte di loro non ha desideri, ha necessità e bisogni, e queste necessità sono il perfetto veicolo spesso per raggiungere quello che si vuole e per stare bene nella vita. Il prossimo pezzo è di Encardia, gruppo itinerante, un'orchestra sinfonica nata qui in Grecia, ma che prende spunto molto dalla musica italiana, mediterranea, la pizzica, la tarantella e così via. In questo pezzo ci sono molto affezionato perché è l'unico concerto che ho visto sull'isola prima che chiudessero. E c'è una traccia, appunto questo si chiama Santo Paolo, e Santa Paolo è il protettore delle necessità, e quindi così mi riallacciavo. Smetterla con i desideri e ricominciare a usare i propri bisogni e necessità per cambiare la propria vita in meglio, anche se spesso non sono mai abbastanza. Mi sembra un'ottima conclusione. Allora, Encardia, Santo Paolo. In concerto deve essere stata veramente una figata, e bellissima energia e soprattutto un bellissimo messaggio quello di Pietro prima. Noi direi che ci risentiamo il giovedì 25 marzo, fra due settimane. Ringrazio quindi Pietro per le sue parole, per la sua presenza, per i suoi racconti, per essere stato con noi. Spero di non averti annoiato troppo, Giacomo. Mai, mi fa piacere, mi fa solo piacere, a parte annoiare no, e poi sono doppiamente felice perché oltre a sentire un sacco di racconti interessanti ho anche l'occasione per sentire un amico, e questo quindi è doppiamente bello. E quindi ringrazio te, ringrazio tutti gli ascoltatori e appuntamento con Dega from Lesbo Island per giovedì 25 marzo. Buona serata a tutti. Ciao.